Punto. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. La prima delle due motovedette, arrivata sul posto alle 4 circa, ha intercettato il barcone alla deriva in una situazione di grave pericolo. Il mare era molto agitato. La concitazione degli occupanti del barcone, insieme a questa condizione del mare così avversa, hanno reso vano ogni tentativo di trarre gli immigrati in salvo e sono finiti in acqua nel corso di queste operazioni di soccorso. Di nuovo buongiorno da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento settimanale con Punto e a Capo. Oggi ripartiamo dal canale di Sicilia, nuovamente teatro di una tragedia della povertà. Mercoledì notte un barcone di circa 13 metri, carico all'inverosimile di oltre 300 persone, si rovescia mentre le nostre unità, chiamate a intervenire da una richiesta della Guardia Costiera di Malta, cercano di prestare soccorso. Decine di persone, in realtà il numero non lo sa nessuno, non lo sapremo mai, probabilmente 250, dunque affogano mentre 53 vengono tratte in salvo e raccontano l'accaduto assieme ai soccorritori. L'imbarcazione incrociava nelle acque territoriali maltesi, ma l'intervento è toccato all'Italia. Il perché lo ha spiegato a Paola Anania, la capitaneria di porto di La Valletta. Le distanze sono proibitive, le distanze sono più corte da Lampedusa che a Malta. Per questo voi avete chiamato l'Italia, perché era più vicino a sì, Lampedusa. Se l'incidente succede altrove, uno cerca un aiuto da qualcosa che è più vicino. In tal caso era Lampedusa. Se fosse successo sull'altra sponda all'est della zona maltese, vicino a Creta, uno avrebbe contattato le autorità a Pireus o altrove, e anche navi mercantili in zona. E ieri intanto il primo ritorno da Lampedusa alla Tunisia sulla base degli accordi bilaterali stretti a inizio settimana, naturalmente tra Italia e Tunisia. 30 dunque i migranti ripartiti alla volta dell'Africa. Prima dell'alba di giovedì intanto un nuovo sbarco ha portato sull'isola 104 persone raccolte mentre erano anche in questo caso in difficoltà grazie al soccorso della Guardia di Finanza. Ora sentiamo un intervento che ha fatto qui ovviamente negli studi di Radio 24 il sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano, che è stato al centro anche di una polemica molto dura dopo le posizioni assunte giorni fa dalla Lega. Alfredo Mantovano lascia, dà le dimissioni, lascia il suo incarico di sottosegretario, poi si trova un punto di mediazione che lui racconta in questo intervento. Io rispetto molto un partito come la Lega, che rappresenta bene e tutela gli interessi del territorio nel quale è presente, però questa vicenda ha dimostrato che esistono anche altri territori della realtà italiana, i quali, a differenza della Lega, non dicono fora di balla, tradotto in napoletano o in barese o in calabrese, ma dicono: noi li prendiamo, ma desideriamo che questo carico sia ripartito. Questa, diciamo, dopo qualche discussione franca e cordiale, come si dice in gergo diplomatico, questo discorso è stato accolto alla fine da tutti e sta trovando un esito operativo. Sugli accordi, è vero, ogni accordo è precario, soprattutto se vi è una situazione di instabilità dell'interlocutore, come è il caso della Tunisia in questo momento, dobbiamo accontentarci di seguire passo dopo passo, giorno dopo giorno, la realizzazione delle intese assunte. I primi segnali sono positivi. Pragmatismo dunque che sicuramente serve in una fase come questa, dunque ricomposizione delle divisioni all'interno del governo. Diverso invece gli sviluppi durante la settimana delle relazioni tra Italia e Francia. Punto e a capo. Ancora buongiorno da Gigi Donelli e Roberto Scaltritti in regia. Ripartiamo dunque da quello che addirittura è stato definita la guerra tra l'Italia e la Francia sull'immigrazione. Insomma, si esagera anche sui giornali. Sicuramente c'è un braccio di ferro in corso. Sentiamo allora il punto della situazione in questo servizio. L'Italia concede permessi, la Francia alza i muri e braccio di ferro tra Roma e Parigi. Non subiremo un'ondata di immigrati, tuona l'Eliseo per bocca del ministro dell'interno Claude Guillon, che emana severe direttive alle prefetture francesi, rigidi paletti che di fatto renderanno molto difficoltoso l'ingresso di chi sogna un futuro oltre Alpe. Tra questi, disporre di risorse sufficienti, essere muniti di un titolo di viaggio e di un documento di identità valido, non costituire una minaccia per l'ordine pubblico, non essere entrati in Francia da oltre 3 mesi. In caso contrario, scattano i respingimenti in Italia. Disappunto di Maroni, che parla di atteggiamento ostile della Francia, mentre per Frattini la questione non è bilaterale ma europea e la russa minimizza. La Francia è un paese amico col quale bisognerà sicuramente a trovare posizioni e linee di intesa. Intanto Maroni oggi incontra lo stesso Guillon e lunedì a Bruxelles chiederà alla Commissione europea di attivare la direttiva sulla protezione temporanea dei rifugiati, ma gli occhi sono puntati soprattutto sull'atteso vertice tra Sarkozy e Berlusconi del 26 aprile a Roma. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Confini nazionali, confini europei, confini dell'Unione. Insomma, siamo tutti d'accordo sul fatto che si tratti di un problema dell'Europa intera, di una trasformazione anche sociale da cui ci si può anche aspettare nel tempo dei risultati positivi, e mi riferisco al desiderio di riforma e di cambiamento che attraversa l'intero Nord Africa. Intanto però tutti sembrano sperare che resti quello degli effetti immediati, quindi i flussi migratori, che resti dunque il più a lungo possibile un problema soprattutto italiano. Ne abbiamo parlato parecchio questa settimana nei nostri programmi, tra i diversi interventi uno che ci ricorda anche a ricordare però dei precedenti è quello di Tobias Spiller, giornalista della FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che ci ricorda un precedente di portata storica. Adesso in Italia si dice che si mettono fuori d'Europa i francesi. Voglio solo buttare nella discussione qualche argomento. Io penso che l'Italia è una situazione difficile perché è il confine sud dell'Europa, ma comunque vi metto comunque a confronto con quello che è successo 18 anni fa, quando la Germania era il confine est dell'Europa. Allora l'anno di punta ci portava 420.000 persone di tutto il mondo che chiedevano asilo politico, così non tedeschi, no? È vero, è vero. Italia e Francia intanto hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro congiunto per bloccare le partenze clandestine dalla Tunisia, attuando parte dell'accordo tra Italia e Tunisia con un pattugliamento congiunto di Italia e Francia, aereo e navale. Insomma, dopo tanti schiaffi un po' della settimana scorsa, proprio alla fine della settimana, il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, appare più conciliante, o meglio, appare più ottimista sulla posizione francese, che conciliante non sembrava affatto. L'incontro con il suo omologo Claude Gant si è concluso con questa nota, insomma, che permette di profilare un approccio appunto multilaterale, in questo caso sarebbe trilaterale visto che riguarda la Tunisia, l'Italia e la Francia, ma soprattutto il fatto che l'Europa cominci a prendere in considerazione che la questione di cui abbiamo parlato in apertura oggi e di cui continueremo a parlare ovviamente nei giornali radio per molto tempo non è una questione di esclusiva competenza italiana. Punto e a capo. Una gigantografia della prima pagina del giornale con il titolo "Processate la Boccassini". Dall'altra parte l'istituzione di una no-fly zone, una zona vietata alla bugia, è una vignetta che recita "I Berluscani", con Silvio che tiene al guinzaglio fedeli Alfano, Gelmini, Brambilla. Queste sono due tra le decine di slogan e manifesti che sono

Altro tema, altre notizie della settimana. Queste arrivano dall'Istat. Il reddito delle famiglie nel 2010 ha registrato un aumento dello 0,9% su base annua dopo la caduta segnata nell'anno precedente. Lo rileva l'Istat, appunto, precisando in una nota che si tratta del reddito lordo disponibile, ovvero l'ammontare di risorse correnti destinate al consumo e al risparmio. Ma attenzione, nel 2010 il potere d'acquisto delle famiglie, cioè il reddito disponibile delle famiglie in termini reali, è calato dello 0,6% su base annua. Nel quarto trimestre il potere d'acquisto è salito dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, tornando, fa sapere sempre l'Istat, sui livelli registrati alla fine del 2009. Insomma, i dati come sempre vanno letti fino in fondo e non sono ancora quelli che vorremmo sentire. Punto e a capo. Riprendiamo il nostro viaggio nella settimana radiofonica dalla Libia, dove si continua a combattere, in particolare nella zona di Misurata, dove ci sono stati altri raid della coalizione. Ieri il capo degli insorti, il capo militare generale Yunis, ha ammesso per la prima volta quello che sembrava ovvio, cioè che i suoi uomini hanno ricevuto armi da paesi stranieri. Si tratterebbe di armi anticarro del Qatar. Lo stesso Yunis ha poi confermato che una postazione dei ribelli, quindi dei suoi uomini, è stata colpita per errore da un raid della NATO. Incidenti per i quali non chiederemo scusa, ha detto a sua volta l'ammiraglio Russell Harding, vice comandante dell'operazione NATO in Libia. La situazione tra Brega e Adjabia era e resta fluida. C'erano veicoli che andavano avanti e indietro, ma il punto è che quei veicoli noi li avevamo già visti a Misurata attaccare i civili ed ora erano su quella strada. Ecco cosa c'era ieri. Emergenza umanitaria gravissima anche in Costa d'Avorio, dove il tentativo di cacciare con la forza l'ex presidente Laurent Gbagbo, l'uomo che ha perso le elezioni presidenziali di novembre per poi di fatto trincerarsi circondato dai fedelissimi nella sua residenza di Abidjan, sembra non arrivare allo scopo. Dopo aver ripreso le ostilità che per anni hanno spaccato in due il paese sulla linea nord-sud, la crisi dei due presidenti si è trasformata in guerra aperta tra le fazioni, con una precisa presa di campo della Francia, che ha scelto di sostenere le pretese di Alassane Ouattara, lo sfidante riconosciuto come vincitore peraltro dalla grande maggioranza delle nazioni, Stati Uniti ed Europa compresi. E ora invece il Giappone, dove a 4 settimane dal tremendo sisma dell'11 marzo continua a salire il bilancio delle vittime, i danni, la portata enorme del sisma che è stato di nuovo in qualche modo rinnovato dalla scossa di 48 ore fa, che è stata comunque violentissima. Per quanto abbia provocato un bilancio di vittime modesto, sono 4 i morti, alcune decine i feriti e dei danni sostanzialmente contenuti, il nuovo terremoto ha riaperto ferite che in realtà non si sono mai rimarginate. Intanto a Fukushima, la centrale nucleare, il sisma non ha creato problemi aggiuntivi, ma la situazione resta critica e i tecnici della TEPCO continuano a lavorare per scongiurare nuove fughe radioattive. La Cina, intanto, ha fatto sapere di essere preoccupata per i riversamenti di acqua radioattivi nel mare, nel mar della Cina, nel mar del Giappone, mentre a Tokyo monta la rabbia dei commercianti di pesce. Al più grande mercato di pesce del mondo, Skiji, nel centro di Tokyo, monta la rabbia dei commercianti e dei pescatori contro la TEPCO, la società di gestione della centrale nucleare di Fukushima, che sta continuando a riversare in mare decine di tonnellate di acqua mediamente radioattiva, con un'operazione considerata necessaria per la prosecuzione dei lavori. È vero che i tecnici della società sono riusciti finalmente a tappare la falla sotto l'edificio del reattore numero 2, che ha riversato in mare acqua a radioattività altissima, ma le preoccupazioni per l'ambiente marino si stanno moltiplicando in Giappone e all'estero. La prima scoperta di radioattività oltre la norma in un pesciolino chiamato Konago, nella provincia di Ibaraki, ha fatto scattare l'allarme. Questa mattina i commercianti di Skiji hanno respinto le partite di pesce provenienti dalla zona. I pescatori di Ibaraki erano usciti in mare, ma sono stati richiamati alla notizia che comunque non avrebbero potuto vendere nulla. Il responsabile del mercato ha detto che non c'è un bando per il pesce di quella zona, ma che non può rispondere dell'atteggiamento dei commercianti e ha ammesso forti difficoltà nelle esportazioni. I ristoranti di sushi in città hanno perso molti clienti e i prezzi del pesce sono in diminuzione. Il governo intanto si appresta ad allargare la zona di evacuazione intorno alla centrale, questa volta a macchia d'olio e per categorie deboli come donne incinte e bambini. Punto e a capo. Quella che si va a concludere è stata anche la settimana del ricordo del terremoto dell'Aquila del 2009, a sua volta una sequenza di eventi sismici iniziati addirittura nell'anno precedente, nel dicembre del 2008, poi andati avanti per diversi mesi fino a maggio inoltrato del 2010 con gli epicentri nell'intera area della città, nella conca aquilana di parte della provincia. La scossa principale è quella che si è verificata il 6 aprile alle 3:32 della notte e che ha avuto una magnitudo pari a 5,9 della scala Richter. Ad evento concluso, il bilancio definitivo è stato di 309 vittime, di oltre 1.600 feriti e di più di 10 miliardi di euro di danni stimati. A 2 anni dal terremoto in Abruzzo, che uccise 309 persone, l'Aquila e gli altri 56 comuni colpiti si preparano alle commemorazioni del 6 aprile, ma con la ricostruzione che stenta a partire. La nostra inviata. Io sto aspettando di tornare a casa mia. Quindi lo Stato perché mi sta pagando l'albergo? Spende tutti questi soldi per fare che? Ci avrebbe aggiustato non solo casa mia, ma tutto il quartiere. Sprofondata sul divano, la signora Rosa fissa con sguardo perso la TV. Da 2 anni la hall di questo albergo è diventata il suo salotto e gli impegni di una casa da gestire sono stati sostituiti dal vuoto di giornate lunghissime. Il vuoto come quello del centro storico dell'Aquila. La signora Rosa è una delle 1077 persone, per lo più anziani o single, ospitate ancora negli hotel, mentre 23.000 sono in affitto o nelle caserme e altrettante traslocate in quelle che qui chiamano le casette di Berlusconi. Queste sono le cifre di un'emergenza che, se è finita per decreto, ribomba ancora forte nel silenzio del decumano senza vita o dei vialetti senza storia delle New Town. Come un faro per i naviganti, i pochissimi locali riaperti, una decina su oltre 100, richiamano con la musica chi ritorna a passeggiare lungo l'unica strada percorribile della zona rossa, ma per incontrare i ragazzi bisogna allungarsi fino al centro commerciale. Dopo 2 anni solo oggi sarà possibile presentare progetti per la ricostruzione di alcuni palazzi, ma prima che le finestre, ora sbarrate, tornino ad essere aperte passeranno ancora anni e il rischio, dice una ragazza, è che sotto quelle macerie finisca per sempre anche la vita della città. Alle sue spalle ci sono le pietre sotto sequestro della casa dello studente, tomba per 8 giovani. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, L'Aquila. Punto e a capo. E ora ritorniamo a giovedì mattina. Titolo a tutta pagina del Sole 24 Ore: Geronzi lascia la presidenza di Generali. Il direttore del quotidiano Roberto Napoletano scrive: è saltato il tappo, i mercati plaudono. Cesare Geronzi non ha evidentemente i cromosomi giusti per guidare Generali, uno dei pezzi più pregiati della finanza italiana, e come l'impiegato Kafka ha visto cadere il suo castello in meno di 1 anno. Appuntamento a 9 in punto per parlare dunque del cambio della guardia, molti gli interventi, risentiamo insieme quello di Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità. Insomma, Geronzi è stato un uomo assolutamente bipartisan, ha dato finanziamenti a tutti. Il suo ruolo di banchiere è stato ad amplissimo raggio e quindi ha svolto un ruolo da questo punto di vista, se vogliamo, assai politico, dove magari la scelta dell'erogazione del credito non veniva esercitata utilizzando i normali criteri di gestione operativi della banca, ma certamente certe scelte erano di natura politica. Io direi che oggi Berlusconi secondo me non è contento di quanto è successo alle Generali, se vogliamo dare una risposta politica. Forse può essere soddisfatto Tremonti? Boh, non lo so, perché ci si potrebbe interrogare sul ruolo di Tremonti in questi mesi, no? Su cosa ha giocato il ministro dell'economia. Certamente Tremonti, voglio dire, è uno di quei personaggi che in questi mesi a volte è stato individuato come possibile, virgolette, traditore di una maggioranza di governo e possibile successore di Berlusconi in un diverso contesto politico. Certamente Geronzi, la sua caduta, non ha fatto bene a Berlusconi. Voi ricordate quando Berlusconi diceva che Geronzi era l'unico banchiere non comunista? Lo sappiamo benissimo i favori che dalla Banca di Roma in su sono stati elargiti al gruppo di Berlusconi. Sappiamo che le relazioni, l'ingresso di Mediobanca del gruppo Fininvest di Marina Berlusconi è avvenuto con la regia di Geronzi. Quindi insomma questo diciamo potrebbe segnare una sconfitta anche politica con le dimissioni di Geronzi. E questo era, come detto, Rinaldo Gianola. Poi i fatti corrono, seguono il loro corso. Ieri pomeriggio, ore 14.50, un'agenzia Radiocorp chiude il cerchio recitando: tra i consiglieri delle generali è stato raggiunto il consenso per la designazione di Gabriele Galateri di Genola alla presidenza della compagnia triestina. Punto e a capo. Non è affatto raro nella storia della scienza e della tecnologia che una grande innovazione appaia e venga applicata concretamente senza che vi sia una teoria scientifica che spieghi come funzioni. Basta pensare agli aerei: solo molti anni dopo, che già solcavano i cieli di tutto il pianeta, si è iniziato a capire perché volano. Quindi la fusione fredda potrebbe funzionare anche senza una spiegazione, ma il fatto è che se ne parla da anni e tante volte è fallita. Allora forse una teoria ci vorrebbe. Questa invenzione, di cui abbiamo parlato a lungo in queste settimane, ce l'ha una teoria? Non è chiaro. Forse c'è, ma non la divulgano. Perché? La ragione è che c'è di mezzo un brevetto. Chi ha ascoltato Radio 24 in questi giorni avrà sentito che abbiamo a lungo parlato e affrontato il tema di una ricerca sviluppata tra i laboratori di Bologna, un privato, l'università, eccetera. Insomma, un caso scientifico interessante di cui vi anticipo che parleremo questa sera a Mebius, e dove si cercherà appunto di capire meglio se siamo di fronte davvero a un'importante innovazione tecnologica oppure all'ennesima delusione. Ma restiamo, prima di sentire insieme in realtà gli aggiornamenti sul traffico, sui temi della scienza. Abbiamo parlato di ozono per tanto tempo, poi il tema è letteralmente andato nel dimenticatoio. Bene, Roberta Pellegatta ci segnala che se ne riparla di nuovo. Sentiamo perché. Fortunatamente siamo protetti da uno strato di piccoli e coraggiosi difensori che abitano ai limiti dello spazio. Le molecole di ozono che formano uno strato a protezione del nostro pianeta. Chi ci pensava più all'ozono? In mezzo alle altre attualissime e temibili emergenze ambientali, del famoso buco, diciamoci la verità, ci eravamo scordati. A rinfrescarci la memoria ci ha pensato ieri l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, denunciando che l'ozono sopra l'Artico è ai minimi storici mai registrati. In questa regione, ha spiegato l'OMM, tra l'inizio dell'inverno e la fine di marzo, la colonna di ozono ha registrato una perdita di circa il 40%, una distruzione senza precedenti dovuta all'effetto dei gas serra e a un inverno molto rigido nella stratosfera. Ma che legame c'è tra il freddo e l'ozono? Vito Vitale, ricercatore del CNR di Bologna. Il discorso di fondo è questo: l'ozono è un equilibrio dinamico fra processi di distruzione e processi di creazione. I processi di distruzione vengono amplificati da una stratosfera molto fredda, quindi a questo punto ho una situazione in cui i processi di distruzione sono molto più forti dei processi di creazione, e quindi ecco che ho il buco. Ancora il buco? Nonostante abbiamo drasticamente ridotto la produzione dei nocivi CFC grazie al protocollo di Montreal. Il problema in fondo è che quello che abbiamo immesso fino adesso non è che scompare. Il tempo di residenza di questi composti è molto molto lungo, quindi loro sono ancora lì in stratosfera e possono operare. Se si creano le condizioni adatte, ecco che il buco dell'ozono si ricrea. Dunque, ancora stiamo scontando i peccati del passato, senza intanto nulla fare per rimediare a quelli presenti. I CFC stanno diminuendo come concentrazione totale, cosa che invece non avviene per la CO2, che invece continua ad aumentare. Non so se riusciremo mai a arrivare a una controtendenza o a stoppare questo aumento dal CO2. Roberta Pellegatta, Radio 24 e Sole 24 Ore. Punto e a capo. Ultimi minuti per risentire una parte di quello che abbiamo raccontato nel corso della settimana, dai grandi temi dell'attualità, dell'economia, della politica internazionale, anche a temi sicuramente più rilassanti, a temi comunque molto interessanti, come possono essere quelli delle posture. Effettivamente si fa presto a dire mettiamoci comodi, soprattutto quando poi ci rendiamo conto che ogni nostra posizione, movimento, postura può essere letta da un occhio attento, in qualche modo analizzata e smascherata. È quello che ha fatto Marco Pacori, psicologo, autore dei Segreti del linguaggio del corpo, ospite questa settimana di Nicoletta Carbone. Uomo seduto con gambe accavallate. È una posizione abbastanza comune. La cosa più importante è la direzione dell'accavallamento delle gambe, nel senso che se sono accavallate in direzione dell'interlocutore, esprimono un interesse e un'apertura nei confronti di questa persona. Se sono accavallate in senso opposto, invece esprimono un atteggiamento di fastidio o disappunto. Nella donna c'è una variante, nel senso che la donna può accavallare le gambe per scoprire una parte di pelle scoperta, una parte di pelle nuda. In questo caso diventa un gesto seduttivo. Donna seduta con talloni sollevati da terra. È un comportamento detto di fuga, cioè un comportamento che esprime uno stato di disagio o di ansia, e questo vale in realtà anche per l'uomo. Uomo con gambe allungate. Generalmente è indice di uno stato di rilassatezza, specie se i piedi sono anche messi in posizione scomposta. Nella donna invece si assiste a un comportamento particolare in cui i piedi vengono mantenuti paralleli alle gambe. In questo caso diventa un comportamento seduttivo perché allunga l'impressione psicologica delle gambe, cioè le gambe a sostanza sembrano più lunghe e quindi più femminili. Donna con gambe intrecciate. E questo può avere due significati: può essere un comportamento di estrema chiusura, e lo si nota in persone fortemente inibite, oppure all'interno del contesto del corteggiamento può esprimere un segnale di appartenenza al proprio sesso, cioè la donna può avvinghiare le gambe per mostrare all'uomo a cui è interessata quanto è femmina, cioè quanto sia in grado di fare qualcosa che proprio per la sua conformazione anatomica l'uomo non è in grado di riprodurre. Uomo con gambe accavallate, piede oscillante. Quest'uomo, anche lo stesso comportamento vale per la donna, indica un comportamento o di ansia se il piede viene oscillato, oppure se si assiste a una specie di calcio, a un comportamento di rifiuto e fastidio. Punto e a capo. Dai temi dell'essere e del benessere, ovviamente in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12, invece al teatro, agli spettacoli, al cinema, come siamo soliti concludere il nostro appuntamento che ci porta anche al tempo libero del fine settimana. Parliamo dunque di una nuova commedia italiana nella stagione delle commedie italiane, ancora una volta. Una storia che parla di vizi e dei problemi del bel paese. È C'è chi dice no di Giambattista Avellino, che parla di raccomandati. Che tema, eh? Il film è con Paola Cortellesi, Paolo Ruffini, Luca Argentero. Per noi l'ha intervistato, come di consueto, la nostra Marta Cagnola. Noi arriviamo da 4 giorni di incontri solo con studenti universitari. E io sono stupito dall'accoglienza, sinceramente. Credo che veramente fosse un tema che avevano bisogno di sentire, di vedere rappresentato in qualche modo. Sono molto felice di questa cosa. C'è una cosa che viene fuori, che in Italia o hai la raccomandazione o devi avere anche un po' di fortuna. Forse tu hai seguito la seconda strada e poi... Un vagone di fortuna, non un po' di fortuna. È vero. Dall'altra... Io non sono così, non sono per niente convinto in realtà che ci si debba rassegnare all'idea che o sei raccomandato o niente. Anzi, diventa molto spesso un po' una scusa, una forma di pigrizia mentale. Dire vabbè, tanto funziona così, se non ho il calcio in culo è impossibile che io riesca. Sono convinto che, come dicevo prima, il livello si stia alzando incredibilmente, quindi non è più solo una questione di merito, è che a pari preparazione non vince più solo il merito ma l'eccellenza. Io sono convinto che in ogni campo una persona davvero che eccellente è quasi impossibile che non venga notata e che riesca a fare quello che vuole fare. È la mediocrità che paga sempre di meno, la mediocrità è la pigrizia o la, insomma, un livello standard. Lo standard non basta più. Punto e a capo. Dottore Fai, ora a letto con 38,9 di febbre, bronchite, cose, niente, farmacia, ho qua tutte le pillole io. Adesso io prendo un po' di oxolamina, perché la voce è un po' giù, la voce è un po' stanca, prendo l'oxolamina. Ecco, la voce è andata a posto. Inconfondibile Walter Chiari, scomparso 20 anni fa. E Walter Chiari, un animale da palcoscenico, è il primo libro biografico dedicato proprio al grande attore. A descrivere la sua vita avventurosa, il suo grande talento, è stato Michele Sancisi. L'idea dell'otto volante è molto calzante, perché Walter ha avuto una vita molto avventurosa, di quelle come le vite dei film, insomma, come canta Vasco Rossi, in cui ci sono state ascese vorticose, rovinose cadute, riprese, risalite straordinarie, perché Walter era capace di conquistare e riconquistare il favore del pubblico anche dopo casi molto, diciamo, drammatici legati alla cronaca giudiziaria. È stato arrestato due volte per storie di droga, insomma, quindi ha avuto anche delle mine sul suo cammino, quindi la sua carriera è stata scombussolata, ma lui è sempre riuscito a ritrovare il rapporto molto forte che aveva creato soprattutto in teatro con il proprio pubblico, e quindi a ritornare sempre sulla cresta dell'onda. Una delle prime cose che ho letto nel tuo libro è il fatto che venga definito quasi un attore globale. Lui era già diverso. Sì, la definizione parte dal teatro, perché lo stesso Walter nelle interviste non ha mai nascosto che il teatro è stato il suo primo e il suo più grande amore. La sua formazione di attore è stata senz'altro innovativa, perché intratteneva il pubblico sulla base di una logica ferrea, di una parlantina eccezionale, di una verve assolutamente spiccata, e anche di una cultura notevole, perché Walter era uno che leggeva moltissimo, che apprendeva velocissimamente tutte le cose, che aveva una memoria prodigiosa e che quindi ha coltivato anche una vasta cultura anche letteraria, quindi rispetto ai precedenti che lui aveva, ha senz'altro creato una forma di intrattenimento diversa e più moderna. E con Walter Chiari concludiamo questo appuntamento del sabato. Tra poco si parla d'Europa, naturalmente, all'altra Europa. Prima gli aggiornamenti da GR24. Da parte mia, da parte di Roberto Scaltritti in regia, un saluto, un augurio di un ottimo fine settimana.